4E. Ascolta e rispondi. Quanto tempo vivesti all'estero? Ci vissi 20 anni. Come vivesti quell'esperienza? La vissi con serenità. Che cosa rispondesti? Risposi di no. Che cosa rispondesti? Non risposi niente. Che cosa leggesti durante il viaggio? Lessi giornali e riviste. Che cosa leggesti prima dell'esame? Lessi i libri in bibliografia.